Nova Lab 24. Nova Lab 24. La voce dell'innovazione. Buon pomeriggio, Luca Tremolare al microfono, sono le 16.07, siamo in compagnia di Sandro Mangiaterra, buongiorno. Buongiorno a tutti. Segnali in codice, quindi, il titolo della puntata. Segnali in codice, la nostra società lancia segnali in codice, sempre più spesso segnali in codice. Siamo sembra tutti tracciabili. Sembra una roba di spionaggio. No, in realtà scendiamo, siamo alla cassa, siamo supermercato. In realtà, appunto, si parte da lì, perché tutti noi abbiamo questa immagine della cassiera, no? Che passa l'oggetto, il nostro prodotto, ta ta ta, fa un bip e poi esce il conto e dice questa rivoluzione, non so quando è scoppiata, una quindicina, ventina di anni fa. E allora il famoso codice a barre lo conosciamo da lì. In realtà poi oggi scopriremo che di codici a barre è piena l'Italia, oggi ne scopriremo di belle, perché passeremo dal codice barre all'etichetta intelligente, l'RFD. Gli ascoltatori di Nova Lab 24 un po' ne hanno già sentito parlare, però insomma stiamo parlando di tracciatori, cioè sostanzialmente anche noi, da un certo punto di vista, come la spesa che viene passata sulla cassa, possiamo venire riconosciuti. E da lì possono nascere moltissime applicazioni che ci riguardano, che ci piaccia o no. Attenzione, questo è un passaggio, ma soprattutto che riguardano la vita di tutti i giorni e spesso senza neanche saperlo. Ecco, infatti noi, per insomma cercare di capire cosa sta succedendo in questo settore di industria, ma anche cosa succederà al nostro quotidiano grazie a queste tecnologie, abbiamo invitato Mauro Sacchetti. Il grande tracciatore. Il grande tracciatore Datalogic, la piccola multinazionale. Quando si parlava di multinazionali, le piccole multinazionali italiane a Bologna, no? Tutto giusto? Multinazionale tascabile, ma non troppo. Ma neanche troppo tascabile. Sentiamo la scheda di Sandro Mangiaterra su Sacchetto. Nel 1974 è stata la prima azienda al mondo a realizzare uno scanner per la lettura del codice a barre alle casse dei negozi di alimentari. Da allora, Datalogic non si è più fermata e ha conquistato numerosi primati nel difficile e competitivo mercato dell'high-tech. Risultato: ognuno di noi oggi viene in contatto con un prodotto Datalogic almeno 5 volte al giorno. Un giusto vanto per Mauro Sacchetto, 50 anni, laurea in fisica e master a Stanford, che di Datalogic è amministratore delegato dopo una decennale carriera come top manager in Pirelli. L'azienda di Lippo di Calderara di Reno, in provincia di Bologna, ha raggiunto i 400 milioni di fatturato, con 2.000 dipendenti sparsi in 30 paesi nel mondo, e può contare su una leadership riconosciuta nei lettori di codici a barre, nei mobile computer per la raccolta dati e nei sistemi a tecnologia RFID. Il tutto sfociato in un portafoglio di 850 brevetti internazionali. Merito di quello che Sacchetto considera il vero fiore all'occhiello di Datalogic: gli 8 centri di ricerca distribuiti tra Europa e Stati Uniti, in cui operano 300 ingegneri capaci di sfornare nuove idee a getto continuo. Allora, a parte che ci ha appena confessato Mauro Sacchetto di un passato da DJ che non ci potevamo immaginare. Tracciamo anche questo. Tracciamo, no? Anche questo, ecco. Allora, Sacchetto, questo è un mondo di cui si sa poco, si dovrebbe sapere un po' di più, perché il codice a barre viene un po' dato per scontato, però non ha solo, innanzitutto chiariamo un punto: lì non, dentro non c'è solo il prezzo del prodotto, ci possono stare molte altre informazioni. Infatti, ed è proprio così, il codice a barre nasceva, e abbiamo detto prima, il primo retailer, il primo supermercato che l'ha introdotto fu nel 74, ed è un'azienda che adesso fa parte del nostro gruppo americana. Oggi il codice a barre è un termine improprio, è meglio dire tracciare un prodotto. Lo facciamo in maniera semplice con quel codice a barre grandi e piccole che tutti siamo soliti vedere nei negozi o sopra un'etichetta del cibo, ma è anche ad esempio nelle poste, nelle raccomandate, un codice che assomiglia ad un francobollo con tanti puntini bianchi e neri, perché quando l'informazione deve essere semplice come il nome e il cognome, basta un codice a barre, quando dobbiamo portarci appresso tutte le informazioni come fosse un passaporto, ad esempio, e si può già fare, in un francobollo noi siamo in grado di mettere moltissime informazioni e leggerle nello stesso tempo con cui leggiamo il codice di un prodotto food in un supermercato. Ecco, proprio del food, sicurezza alimentare, si è parlato tantissimo di scandalo alimentare, non si riesce a capire da dove arrivano le merci. In realtà tutto questo è da un punto di vista tecnologico è un'incongruenza, perché si può tranquillamente collegare un prodotto alla sua storia. Si può sicuramente, se noi ci liberiamo per un momento del concetto di codice barre e pensiamo di tracciare i prodotti, possiamo sicuramente farlo, ma già oggi lo facciamo. Le farmacie oggi hanno già la capacità, oltre a capire il costo e il riordino del prodotto che vanno a leggere, anche di vedere la data di scadenza. La scadenza, certo. Ad esempio, quindi si può sicuramente andare attraverso una tracciabilità verticale. Noi forniamo quindi, tecnologia. Per intenderci, vediamo se ho capito, Sacchetto, la famosa bistecca parte dall'allevamento tal dei tali, situato nel posto Y, e va avanti in tutta la filiera, macellato nel macello di certo. Quell'altro posto, eccetera, eccetera, e quindi io so la bistecca, persino il nome della mucca, è così? Tecnologicamente è assolutamente così. Se voi pensate ad una consegna di un pacco dall'Italia all'America, usiamo un corriere, ad esempio FedEx, voi oggi già andate in internet e vedete tutta la storia di tutto il tracciato che ha fatto il prodotto. Parte da Milano in corriere, va a Oriol Serio, parte in un aereo, va a Heathrow, da Heathrow va a Los Angeles, da Los Angeles sarà nell'Oregon dove l'abbiamo mandato. Tutte queste cose sono tracciate già oggi, sono tracciabili. Quindi anche per il mondo food fare la filiera tracciata non è un problema di tecnologia. E qual è il problema? Credo sia un problema di legislazione, di far diventare cogenti delle regole che sono oltre il buon senso. E delle direttive anche di natura europea. Assolutamente. Anche perché, Sandro, cioè io non mi sono mai fidato, ma per questioni caratteriali mie, cioè vai a prendere la bistecca, c'è sul bigliettino che dice arriva da questo paese, sì. Scritto con bistecca la matita. Bistecca italiana. Bistecca italiana, esatto. Carne italiana. Carne. Mi piacerebbe tanto a livello tecnologico poter avere in casa un aggeggio che... dopo che ho fatto la spesa o prima che ho fatto la spesa o perché no, quando vado a fare la spesa, mi certifica la verità di quel prodotto. È assolutamente fattibile. Oggi già in Italia abbiamo almeno due catene di ipermercati, di cui non faccio il nome perché come sempre è bene non fare pubblicità gratuita, che utilizzano il concetto di self-shopping, dove ad un lettore che è simile ad un telefono PDA, quindi parliamo di quei telefoni che ricevono anche l'email, sì, tipo iPhone, i cosiddetti smartphone. Perfetto. Sono in grado di leggere il prezzo e di leggere tutta la filiera che il retailer, quindi il supermercato, vuole mettere a disposizione in tempo reale e scegliere. Quindi, Sacchetto, anche lì vediamo se delineiamo uno scenario, cioè arriverà un momento in cui ognuno di noi avrà un lettore e potrà leggere anche a casa la tracciabilità del prodotto. Per intenderci, torniamo alla famosa bistecca marchigiana. Io voglio sapere, siccome sono marchigiano, da quale allevamento viene. E magari lo conosco anche e posso preferire l'allevamento tal dei tali all'allevamento tal altro. Arriverà al punto che ognuno di noi avrà un lettore come avrà il cellulare? Non è che arriverà, c'è già. Questa tecnologia è già disponibile e assolutamente il cellulare, se vogliamo chiamarlo, evoluto, che sa anche leggere quello che due catene importanti italiane hanno, costa esattamente come un lettore normale. Tecnologia disponibile. Oggi il problema è legislativo nel far diventare obbligatorio non solo dire l'allevamento che ha generato quella bistecca, ma quando hanno macellato la bestia, da quanto tempo questa cosa. Però, Sacchetto, fin qui forse ci siamo, no? Cioè, ognuno di noi ha visto questi strumenti, ognuno di noi ha sentito il problema della sicurezza alimentare, della tracciabilità della filiera alimentare, cioè, però appunto i segnali in codice vengono ormai da ogni altro genere di settore, è così? È assolutamente così, ed è vero che questa applicazione ci deve trasmettere un senso di sicurezza più importante e profondo di oggi. Pensate, non ad esempio, paura, quindi? No, tutt'altro, pensate al mondo ad esempio sanitario, la sanità. Oggi noi in un ospedale di Milano abbiamo venduto una soluzione che permette di identificare attraverso un braccialetto con il codice a barre, l'RFID, l'associazione neonato e mamma, che vi sembrerà banale, ma non è proprio così. Come si faceva col braccialetto sul nome, come no? Come si faceva col braccialetto col nome, solo che è un braccialetto. Sandro Mangiaterra ce l'aveva è un braccialetto. Bambino, diceva mia madre. Esattamente, intelligente, che quando l'infermiera che ha in mano il nostro terminalino intelligente lo associa al bambino, gli dice da che mamma deve portare il bambino, ha la cartella clinica immediatamente disponibile, quando gli dà la medicina, verifica il codice a barre della medicina e si accerta che la medicina è esattamente quella prescritta e non un'altra, quando fa la poppata e pesa, legge direttamente il peso e aggiorna la cartella clinica, tutto questo senza perdita di tempo e per una sicurezza della mamma e del bambino molto più elevata. Di quindi pensiamo per esempio ai bambini con delle patologie gravi o ai prematuri, no? Cioè tutto esempio, monitorato in tempo reale. Ma pensiamo anche alla sicurezza, i bambini oggi possono essere portati via da un reparto, con questo braccialetto ci sarebbe tracciabilità dove il bambino, se esce il bambino, a che è uscito da un reparto, quando va a fare gli esami. Sacchetto, ci chiedono insomma i nostri ascoltatori, ma è facile contraffare un codice a barre? Anzi, loro sostengono che sia facile contraffarlo e in realtà anche a me, che sono un po' smanettone, mi piace andare nei siti dove non si deve andare, ho visto dei posti dove si possono scaricare, si può entrare, si può mettere le mani nel codice. A proposito di codice, 824-0024, il numero verde 349-238-6666. Si possono smanettare, si può provare a simulare il contenuto di un codice a barre, tanto più il codice è elementare, ricordo quello semplice fatto di lineette bianco e nero, tanto più è facile. Ci sono codici bidimensionali che sono sempre più complicati da contraffare. Se poi associate, come nella soluzione dell'ospedale di Milano, un codice ad una RFID, diventa praticamente impossibile alterare l'insieme delle informazioni. Perché tra l'altro l'altro tema è il fatto che io non solo posso mettere posso associare al prodotto la provenienza, ma posso anche certificare che insomma per produrre quel paio di scarpe non sono stati utilizzati minori. C'è tutto un aspetto di acquisto etico che, attenzioni, oggi acquisto etico consapevole oggi anche alla luce di Copenaghen, certo. Tra l'altro alle 16:30 ci collegheremo con Gigi Donelli da Copenaghen. Ecco, cioè, nel senso, ci sono delle informazioni in più che oggi il consumatore vuole avere sul prodotto. Non basta più sapere che insomma la mucca è italiana, voglio anche sapere, accidenti, come è stata allevata, e cosa ha mangiato, proprio come si chiama, ma sì, tutto qua devo saperlo, insomma, sapere se è la Carolina o ma voglio la anche, probabilmente voglio fare anche di più, perché oggi la transazione dell'utente con il prodotto avviene solo ad una cassa, quando sostanzialmente si transa il costo di questo oggetto. Stiamo notando che le nostre proposte stanno avendo fascino e riscontro perché noi cambiamo il momento del rapporto con le informazioni, non solo la cassa che rappresentava la fine del processo, ma l'inizio. È importante sapere che l'allevamento marchigiano di quella zona è macerato in quel tempo quando io lo scelgo il prodotto, non quando lo pago. E certo. Quindi noi stiamo proprio modificando il rapporto, certo, con il lettore del codice a barre. Prima c'è un mondo che attendeva un prodotto che gli passava vicino. Pensate al supermercato e la cassiera che faceva transitare dei prodotti. Adesso il consumatore diventa protagonista. Adesso noi stiamo dicendo, entrate in un supermercato, prendete questo nostro aggeggio e andate a fare la spesa con l'aggeggio. Questo aggeggio non lo voglio definire diversamente. Questa tecnologia vi aiuta a leggere cosa comprate, a capire quante calorie ha, a capire da dove proviene e tutta la filiera. Quando l'avete scelto, sapete il prezzo, lo mettete già nella borsa, non dovete neanche più riversare tutto da altre parti, perché arrivati alla fine del processo appoggiate come fosse un telefonino da ricaricare questo lettore ed esce automaticamente il conto. Quindi la nuova frontiera non soltanto è la tracciabilità di ogni prodotto e il consumatore protagonista, ma l'abolizione delle code alla cassa. Ma su questo tra l'altro volevo leggere un sms che è arrivato che è assolutamente interessante. Enzo da Vicenza ti dice: mi sono diplomato nel 1983 in elettronica con una tesina sui codici a barre, non mi crederete ma il mio professore non credeva in questo sistema nell'83. Noi abbiamo qui che sta ridacchiando Samuele Astuti, ricercatore della LIUC di Castellanza, Libero Istituto Università universitario Carlo Cattaneo, è tutto giusto? No, in realtà adesso è Università Carlo Cattaneo, buongiorno a tutti. Ha perso il libero. Ha perso il libero, non è più libera, attenzione. Ecco, allora, loro hanno questo laboratorio, insomma, che fa anche da consulente in un certo senso per le piccole e medie imprese che vogliono, diciamo, mangiare un po' di tecnologia. Esattamente, sì, noi abbiamo aperto 3 anni fa insieme alla Regione Lombardia, alla Camera di Commercio di Varese e con il supporto dell'Unione Industriale di Varese questo laboratorio che dà servizi fondamentalmente alle piccole e medie imprese, ma ci occupiamo anche di qualche grossa impresa e del settore pubblico. Il settore sanitario sicuramente è per noi un settore molto importante dove abbiamo già lavorato, abbiamo studiato per esempio l'applicazione di sistemi RFID per l'identificazione del paziente. E ecco, tra l'altro mi raccontava anche che voi avete un progetto sugli anziani. Certo, mentre Sacchetto c'è un progetto sui bambini, voi avete un progetto sugli anziani, è così? Sì, noi abbiamo presentato una richiesta di finanziamento alla Regione Lombardia proprio per montare a bordo dell'anziano all'interno della sua casa una serie di sensori che ci permettono di monitorare lo stato di salute dell'anziano, non soltanto sapendo qual è la sua temperatura, ma anche sapendo se è caduto o non è caduto, qual è la sua ECG in quel momento e tutta un'altra serie di sensori che permettono di valutare il suo stato di salute. E di controllarlo a distanza, quindi? Assolutamente sì. L'immagine non è bellissima, l'idea di avere sul nonno, cioè a bordo del nonno è terribile. Però è utile, è utilissimo. Certo. Metti che ti scappa il nonno, perché almeno si sa dove finisce il nonno e si sa come sta, ma in primis dove è andato. Sì, pensa a te, nonno, a bordo ti hanno questi signori, a bordo ti inseriscono un'etichetta. Tutto questo che è molto buffo, anche molto buffo, è oggettivamente, mi sembra, molto utile anche, no? Sì, perché le applicazioni nel settore sanitario sono molteplici, sono probabilmente infinite, dal controllo della cartella clinica appunto al sapere dove vanno e dove sono. Pensiamo per esempio ai malati di Alzheimer, no? Sì, punto è quando io ho un'etichetta addosso e non lo so e forse non certo, voglio neanche essere averla, tanto seguito. Certo. È possibile questo da parecchi anni ormai, non dico che ci sia uno scambio di gente che come gli scherzi che si facevano all'elementare che ti mettevano il foglio dietro la schiena con scritto sono un asino, col pesce d'aprile, però insomma questa tecnologia che consente di tracciare le persone c'è, esiste, è un po' costosa sì, perché diciamo che l'unico tema è quella appunto della tracciabilità, però il chip esiste. Ma però in realtà che Sacchetto dice no, non è neanche costoso. No, non è assolutamente non costoso. È più costosa. No, non lo è. Comunque non è più costosa, in realtà ormai iniziano a essere anche abbastanza solide le infrastrutture che ci stanno dietro, nel senso che ormai si è lavorato così tanto sulle infrastrutture di supporto ai sistemi RFID, diciamo wireless in generale, che ormai non si hanno più dubbi sulla bontà del dato. Ormai abbiamo una capacità di trasmissione particolarmente elevata e quindi possiamo raccogliere sull'anziano tutta una serie di parametri e trasferirlo a una centrale operativa che va a monitorare poi l'anziano, o il degente post operatorio, per esempio, invece di fare tutta la degenza in ospedale possiamo pensare a un suo rientro a casa prima, e probabilmente questo va a favorire anche la bontà della sua degenza, la qualità della sua degenza post operatoria. Senta Stutti, io ero interessato però appunto questi sistemi, il codice a barre piuttosto che l'RFID, poi magari forse è bene in estremissima sintesi che qualcuno di voi ci spieghi ai nostri ascoltatori bene che cosa significa questo RFID, però hanno anche applicazioni industriali, non soltanto per il consumatore o applicazioni sociali, ma anche di creazione di efficienza interna alle aziende, è così, no? Assolutamente sì, ormai ci sono io penso alla gestione del magazzino, ma forse non solo. Sì, ormai ci sono tutta una serie di device molto importanti che si vedono nella vita quotidiana, come il telepass, lo ski pass e così via, ma la maggior parte delle applicazioni RFID sono all'interno dell'azienda. Qui poi spero ci sarà tempo di parlarne con maggior dettaglio, applicazioni interne alla singola azienda e applicazioni applicazioni di filiera, che sono due mondi che utilizzano la stessa famiglia di tecnologie ma con degli impatti particolarmente diversi e con delle prospettive però particolarmente non interessanti. Non ci crederà, però la domanda che arriva diciamo a livello industriale è come riuscire a fregare la cassa, quella del supermercato, che funziona con il codice a barre. Cioè, c'è un modo per riuscire a passare o addirittura a pagare meno? Diciamo che probabilmente è più il costo del tempo di andare a decriptare un codice RFID ma che il vantaggio che si porta a un altro? Sì, assolutamente. Sopra dovrei, magari. A quel punto probabilmente avrei un errore di lettura e quindi alla cassa vedi. Scoverebbero il non è se, vedi, truffatore. Vedi, il mio spirito da, però, di truffa. No, quindi se io metto sopra le fragole il costo delle patate che è inferiore, viene un errore? Viene un errore solo nell'ortofrutta, per essere chiari, dove tu scegli l'associazione. Il 95% dei prodotti in un supermercato ha già nella busta l'associazione del codice, quindi non si può. Non si può barare. Non si può. Nova Lab 24. Bentornati, Luca Tremolada. Siamo in collegamento con l'inviato di Radio 24 a Copenaghen, Gigi Donelli. Buongiorno. Buongiorno a te, Luca. Un saluto agli ascoltatori. Ieri ci hai parlato degli extraterrestri. Oggi vediamo su tutti i siti e su tutti i giornali le foto di questi extraterrestri che hanno invaso in un certo senso il summit dell'ambiente. Ecco, oggi che cosa hai visto di interessante? Che cosa è successo anche di interessante? Naturalmente c'è tutto un fronte politico, un fronte di dibattito. Oggi in un titolo potrei dire è stato un po' lo giorno del botta e risposta tra Stati Uniti e Cina. Ho appena la tua impressione è che è l'inizio di una schermaglia o sono già d'accordo sostanzialmente? Ma io penso che non ci sia un accordo, ma naturalmente non posso dirlo ciò che accade nelle segrete stanze, ma che sicuramente insomma ci sia un po' questa chiarissima tendenza a fare parlare prima gli altri e soprattutto a fare spendere gli altri, quindi si discute su numeri, si discute di abbattimento e tutti quanti lamentano che l'altro non sta facendo abbastanza. Ecco, invece sul fronte dell'industria spaziale mi sembra che sia successo qualcosa. Sì, oggi è una tra le molte cose interessanti di Copenaghen, perché l'abbiamo già detto negli altri collegamenti, insomma Copenaghen è anche l'appuntamento naturalmente per i gruppi di pressione, per gli attivisti, che, tra i quali i marziani di cui abbiamo parlato ieri, ma anche dell'industria vera e propria pesante. Beh, oggi a Copenaghen, guarda caso, sbarcano contemporaneamente l'Agenzia Spaziale Europea e la NASA, che presentano una serie di avvenimenti. Perché sono qui? Perché se c'è un prodotto che è particolarmente importante nel climate control, quindi in generale nell'osservazione della Terra, come si dice più correttamente, quelli sono i satelliti, un mercato importantissimo. L'ESA oggi ha scelto Copenaghen per annunciare il prossimo lancio di Cryosat, quello che sarà il satellite di controllo per le zone polari, il terzo di una serie di oggetti specializzatissimi proprio sul fronte del controllo di ciò che accade sul nostro pianeta, naturalmente temperature, innalzamento dei livelli del mare, insomma tutte quelle informazioni che devono essere messe a disposizione poi dei decisori e che in realtà vengono messe appunto proprio a livelli di altissima precisione proprio in questi anni. Insomma, tracciare un po' il clima, che anche la tracciabilità è anche un po' il tema della nostra puntata. Grazie Donelli, noi ci risentiamo domani verso le 16:30-16:35 per avere un po' le tue impressioni da Copenaghen. Grazie, a domani. Ecco, torniamo appunto in studio sul anche tema. Il pianeta lancia segnali e quindi bisogna decrittarli, insomma. Un passo indietro con astuti, cos'è un RFID? E ridò il telefono per gli SMS 349-238-6666. Allora, il tema del laboratorio è quello dell'autoidentificazione. Sicuramente i sistemi RFID sono sistemi molto importanti all'interno di questa macrofamiglia. Molto accademico, così più semplice ancora. Molto semplicemente, la differenza fra un sistema RFID e un sistema codice a barre sta nel fatto che posso leggere più tag contemporaneamente, mentre di codice a barre ne devo leggere per forza uno alla volta. Per leggere un codice a barre ho bisogno di poter vedere il codice codice stesso, mentre sui sistemi RFID così non è, e il fatto che su un tag RFID io posso andare a scrivere e riscrivere informazioni, quindi andare ad aggiornare quella che è l'informazione legata all'identificazione del pezzo. Ecco, Sacchetto, però mi sembra che siamo, se ci fermiamo qui, ragioniamo su una tecnologia tutto sommato vecchia, cioè non è questo il centro del problema, no, mi sembra. No, il centro del problema è, anzi, quello che abbiamo appena detto, i codici a barre, l'RFID sono le soluzioni di oggi. Il problema che veramente abbiamo è associare a dei prodotti una storia e un contenuto. Questo è stato fatto nel 74 con il codice a barre, poi l'RFID, poi il codice 2D. Credo che il futuro stia nell'immagine, nell'imaging. Tutti quanti noi conosciamo il tutor, quello malefico aggeggio che ci dà la delle multa delle autostrade che ci dà la multa per la velocità media, un pezzo di quella soluzione ce l'abbiamo messo anche noi. Credo, sono sicuro che in un prossimo futuro la tracciabilità dei prodotti avverrà attraverso videocamere, immagini che vengono decodificate da software intelligenti e in tempo reale ci danno l'identificazione, il contenuto dell'oggetto che stiamo analizzando. Tutti quanti abbiamo bisogno di avere informazioni. Aspetti, Sacchetto, allora, il tutor, vediamo se riesco a riassumerlo, perché me l'ha spiegato prima, mica peraltro. Cioè, la mia macchina che passa sotto una videocamera a Melegnano, viene ripresa la targa, e quindi si risale alla mia macchina e arriva a una certa ora e si registra il tempo a Piacenza c'è un'altra videocamera e vediamo quanto tempo ha impiegato, certo, da Milano a Piacenza. La distanza è nota e quindi il software intelligente cui faceva riferimento, certo, è quello che dice: tu hai fatto la media a 160 all'ora e quindi ti do la multa. Esattamente, che esattamente con due immagini all'inizio e alla fine. Banalizzando, con due immagini, okay, è la stessa cosa che noi forniamo come strumento nelle fabbriche. Pensate a questi grandi conveyor che sono i nastri automatici che si portano i pezzi che devono essere assemblati. Ecco, lì dentro noi con l'immagine riusciamo a identificare i pezzi, a scriverci con dei laser dei codici, perché l'etichetta verrebbe via quando la lavorazione meccanica li modifica, e poi dire in che momento sono transati, in che postazione sono transati, l'operaio che li ha prodotti, la catena di montaggio che li ha assemblati. Beh, per il concetto di qualità totale. State trovando un modo per aggirare i divieti? Mi sono distratto un attimo. No, stiamo trovando il modo per rendere la nostra vita più tracciabile. Allora, abbiamo una telefonata. Paolo D'Alecco, buongiorno. Sì, buongiorno. Io volevo ritornare al problema delle etichette RFID che vengono usate, diciamo che dovrebbero venire usate per identificare in modo univoco ogni prodotto che noi andiamo a comprare. Ok. Io ho letto uno studio fatto dalla Confederazione Elvetica nella quale sosteneva che uno dei problemi più grossi dell'introduzione dell'RFID su larga scala sia lo smaltimento degli RFID stessi, perché a livello di numeri noi pensiamo che gli RFID sul mercato tedesco devono essere di circa di qualche miliardo di pezzi all'anno. Dato che ogni RFID ha dentro un'antennina che quindi rame e quindi, certo, fondamentalmente un materiale prezioso, no? Se noi moltiplichiamo il numero degli RFID che dovremmo produrre per andare a etichettare in modo intelligente tutti, diciamo, i prodotti che andiamo a mettere sugli scaffali, no? Sì, si tratta di dramma. Un'identificazione sul singolo pezzo, non si tratta di un'identificazione a lotto, quindi si tratta di un'identificazione sul singolo pezzo. Allora, il numero degli RFID che dovremmo produrre sarebbero veramente interessanti. Il prezzo del rame a gogo. A questo punto il problema dello smaltimento. E quindi in questo studio svizzero si rammentava che uno dei problemi più grossi che dovevano essere affrontati dall'industria era quello di produrre degli RFID che potessero in qualche modo essere disaccoppiati, o quantomeno, certo, che avessero dei meccanismi. Quindi, hanno dei vantaggi sul versante della sicurezza alimentare, eccetera, eccetera, poi in realtà c'è un problema di smaltimento, è così? Sì, sicuramente questo è un problema. In realtà non c'è soltanto il rame, ma c'è anche il silicio da smaltire. La cosa interessante è che ci sono già in atto oggi una serie di progetti molto interessanti che riciclano i tag. Per esempio, i tag che vengono utilizzati per tracciare gli animali da macello. Basta, animali da macello. Sono gli ascoltatori che noi abbiamo una sensibilità ambientale, ma facciamolo sulla verdura. I tag vengono riutilizzati e possono essere utilizzati, per esempio, esempio per tracciare le strutture in cemento armato e quindi facilitare il riconoscimento del provino che mi richiama quella specifica gettata di cemento armato. Quindi ci sono già in atto una serie di sperimentazioni, per esempio una all'Aveno fatta dal JRC e dal CATID di Roma, che riutilizza questi tag per i percorsi per i non vedenti. Quindi ci sono in atto una serie di progettualità che hanno la finalità anche di riciclare in maniera intelligente. Però, vorrei rassicurare, una battuta anche lei, che siamo in chiusura. Velocissimamente, credo sia antieconomico e quindi non capiterà lo scenario che il nostro ascoltatore ha prospettato, perché l'RFID ha valore aggiunto quando parliamo di prodotti complessi. Per tracciare un prodotto ed avere l'informazione, per tornare sempre al discorso del nostro collega, quale macello, quale filiera o quale verdura dove l'abbiamo coltivato, il codice a barre 2D che è utilizzato al 3% dei casi oggi è più che sufficiente. Ricordiamoci che l'RFID è una tecnologia che rispetto ad un codice a barre è usata 1000 volte meno. Un codice a barre nasce già nella confezione del prodotto, già si porta molte più informazioni di quante oggi noi lo vogliamo leggere. Credo che lo step sia: utilizziamo una tecnologia che non ha impatto ambientale come quella del codice a barre 1D o 2D, prendiamoci tutte le informazioni della filiera e lasciamo l'RFID solo per le soluzioni veramente tecnologiche. Non credo che lo scenario vedrà milioni e milioni di transazioni fatte in questo modo. Anche perché magari un cucchiaino con un'etichetta è poco. No, una domanda a Sandro invece. No, io vorrei fare una domanda a sacchetto, cioè quanto mi potrebbe costare montare un sistema RFID per sapere finalmente dove sono i miei libri nella mia biblioteca? Ecco, io non lo monterei RFID per cominciare, perché per sapere dove sono i libri nella biblioteca un sistema codice a barre è più che sufficiente, visto che noi abbiamo fornito... Cioè io ci passo col lettore, sto cercando... Col telefonino... I promessi sposi, dove sono i promessi sposi? Esattamente, noi abbiamo dato soluzioni a biblioteche nazionali, americane ed europee. La più bella biblioteca americana, il nostro sistema, in cui c'è un registro, si vede un codice barre. Ma la biblioteca del cittadino, a me quanto mi costerebbe un sistema per trovare il libro? Gli dica troppo, perché lo vuol fare, gli dica troppo. Così. Dai 300 ai 500 dollari se lo vuole fare veramente bene. Oh. E glielo vendiamo completamente noi online. Quindi, attraverso la nostra società in Texas. Sì, si può fare, insomma. Non c'è problema, si chiama Informatics. Nel Texas, Giulio domanda in un SMS, stiamo veramente chiudendo, ma è necessario rendere la nostra vita più tracciabile? Perché i tuoi libri è un conto. Però no, la vita è un altro piano. Però trovare le cose, cioè io penso che il consumatore consapevole, e quindi la maggiore consapevolezza, il maggiore protagonismo del consumatore sia in Italia un problema ed è un grande vantaggio. Una battuta veloce. Velocissimo, concordo con quanto detto prima, cioè che un domani non tutto sarà taggato, cioè non tutto sarà taggato con sistemi RFID, ci saranno sicuramente moltissime applicazioni che continueranno a vivere col barcode. Ha senso l'RFID dove le funzionalità dell'RFID non possono essere supportate da sistemi anche di data matrix. Anche sulla tracciabilità all'interno della gestione documentale, in alcuni casi può essere supportata con sistemi barcode, non sempre così. Per esempio, la comunità europea, che ha bisogno di tracciare determinati documenti su grossi volumi, sicuramente ha la necessità di usare degli altri sistemi. Perfetto. Io ringrazio Mauro Sacchetto, ringrazio Samuele Astuti. Nova Lab 24. Luca Tremolada al microfono, non facciamo Baccano, stiamo ritornando, c'era già Baccano prima. Siamo qui con Alessia Maccaferri, redazione di Nova 24, domani in edicola il numero di Nova legato al Sole 24 Ore, il titolo: auguri al verde. Doppia valenza. Eh sì, Luca, doppia valenza. Al verde perché si sa, questo è il Natale della crisi, ma al verde anche perché questo è il Natale di Copenaghen. Di Barack Obama, insomma, del verde. Vedremo un po', insomma, si leggerà dentro le pagine quale aspetto è più importante. Tu hai scritto la storia di copertina. Si parla di dono, si parla di economia del dono. Qual è la cosa più importante che hai capito nella tua inchiesta? Beh, che finalmente a noi complici anche la crisi stiamo imparando a fare regali utili, belli, etici, come dire, stiamo raggiungendo un equilibrio tra l'impulso all'acquisto da un lato, quindi la componente più razionale, e dall'altro la scelta, la razionalità, e perché no anche un occhio all'ambiente. Pensa, Luca, che si può acquistare online un pacchetto per la compensazione dell'anidride carbonica. Ah, però, sì, però. E beh, pare che dall'Italia stiano arrivando molti, molti ordini. Tra l'altro tu mi segnalavi anche il fatto che si impiantano degli alberi? Esattamente, sì. Loro arrivano a compensare fino a 250 kg di anidride carbonica. Quanto costa? Credo attorno alle 30 sterline. Ok, quindi si può fare, un bel regalo. No, però l'altra cosa interessante nel campo di beni immateriali è comprarsi un pezzo di luna. Che lo so, sarà, no, cioè, Mangiaterra già fa la faccia, ma no, ma sono stupidato. Invece ha un valore simbolico mica da ridere. Come quelli che comprano le stelle e le denominano, no? Esatto, pensa che c'è da questo punto di vista una richiesta molto forte da parte dei consumatori italiani. C'è questo sito che vende la luna a metri quadrati, o si possono dare il nome alle stelle, e dall'Italia c'è stato un incremento delle richieste del 45% quest'anno, proprio perché c'è voglia di pensare a regali con più esperienza, con più vissuto, con più, anche con si guarda al cielo, diciamo, si guarda un po' al cielo in un momento come l'attuale. Torniamo un rapidissimo secondo sull'RFID, due sms. Un ascoltatore si domanda: se io allora percorro, il tema è quello delle multe, vado a 220 km all'ora e poi mi fermo a pranzo per un'ora, cosa succede? Niente, per due motivi. Primo, non è l'RFID, il sistema che traccia il tutto. Perfetto. Secondo, tra due sistemi di rilevamento non c'è mai un'area di sosta, un benzinaio, un autogrill. Cioè, non succede niente, nel senso succede di tutto. Cioè, arriva la multa, però non si viaggia a quella velocità. Però io credo che noi dobbiamo fare uno sforzo. Per essere più etici, per fare regali più intelligenti, ci saranno le informazioni. Per avere le informazioni non è malvagio chi ti traccia, è malvagio chi ti traccia male. Ricordiamoci questo. E poi non preoccupiamoci se RFID non è trasparente. Esattamente. A domani. Ciao.